Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, in questa vigilia di campionato vedo in TV un Leonardo che sta parlando, allora lo sentiamo subito, una battuta al volo all'allenatore del Milan. Tanto. Un te con meno minuti, ha fatto gol decisivi, ci ha portato punti, alla fine è quello che è la cosa più importante, e di questo sinceramente sono molto felice, di quello che è stata la gestione, vedere arrivare alla fine un giocatore che ha fatto tanto, che ha giocato meno, non di tutti gli altri, meno di quello che è la sua abitudine, ma risponde. Alla fine credo che questa sia la cosa importante per tutti. Suppongo stesse parlando di Inzaghi, ma su tutti questi temi avremo tempo domani di tornare ampiamente. Allora oggi è martedì, non c'è Gigi Garanzini, ma non è una buona ragione per perdere buone abitudini. Calcio internazionale sugli scudi, anche perché è stato un weekend non banale, io credo. Fabio Tavelli, buongiorno. Buongiorno caro Carlo, buongiorno a tutti. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Fabio, ieri en passant citavo Mino Raiola, dopo la panchina di Ibra contro lo Stoccarda, non c'è bisogno di ricordare tutte le volte chi è, lo sanno tutti io immagino. No, tanto Raiola ultimamente è davvero più intervistato di sì. Qualsiasi star del cinema o della musica, insomma lui è molto disponibile, devo dire, però insomma fa il suo lavoro, è anche molto cinematografico e molto spesso sì. Appunto ti capita al di là della cornetta del telefono. Sì, a me è capitato settimana scorsa e lui mi ha detto, ma sai, non c'è stato ancora un giornalista che m'abbia stupito con una domanda, allora io ho provato a buttargli lì, ma insomma se un giorno la Porta dicesse scambiamo Ibrahimovic con Balotelli, e lui è stato fantastico perché ha detto, beh ma sai, la Porta non sarà più il prossimo presidente del Barcellona perché andrà a fare una carriera politica, e quindi l'ha elusa così, e io trovo che li stiamo allenando questi personaggi a diventare bravissimi. Ah sì sì, lui è fantastico, è il prossimo Danny De Vito secondo me. Forse è già l'attuale. Forse è già l'attuale, è Danny De Vito che è il clone di Raiola. Comunque ha detto dopo la panchina di Ibra con lo Stoccarda che al Barça c'è chi pensa solo ai gol, riferimento facilmente immaginabile, memorabile la risposta di Guardiola. Ha detto che dovrebbe controllare quello che dicono, che Ibra dovrebbe controllare quello che dicono i suoi dipendenti. La risposta di Messi invece è arrivata nel weekend, io direi. Sì, Messi ha fatto una settimana davvero pazzesca, al punto che io ho azzardato questa cosa, l'ho fatto su Facebook e sono stato travolto dai commenti, e cioè questo. Secondo me non è più blasfemo cominciare a fare dei paragoni con Maradona, ma non tanto sulla carriera dei due, perché è impossibile. Messi è comunque, anche se c'è da un po' di tempo, comunque in una fase iniziale della carriera, e Maradona invece la sua carriera l'ha fatta. E insomma, a 22 anni, se noi paragoniamo i 22 anni di Messi, quasi 23 li compirà a giugno, e i 22 di Maradona, nato nel 60, quindi 82, quindi primo anno al Barcellona, quindi mondiale in Spagna, cioè, il paragone diventa difficile per Maradona, nel senso che quello che ha fatto Messi nei primi 22 anni della sua carriera Maradona non l'ha fatto. Poi un conto è che Messi possa tenere questo standard e invece Maradona ha dato il meglio di sé dai 24-25 anni in su, quindi può anche essere che quando rifaremo questa telefonata fra 6-7 anni, se ci saremo ancora, se soprattutto faremo questo mestiere, magari saremo a dire, beh, Messi è partito molto bene, però poi Maradona lo ha rimontato. Ma se il traguardo lo mettiamo a quota 22 anni, insomma, Messi sta davanti, questo sì. Non c'è dubbio. Sì. Io veramente faccio fatica a non dire che Messi nei primi 22 anni della sua carriera è inarrivabile. Se il confronto tra Pelé e Maradona era insostenibile perché Pelé, per motivi un po' anagrafici e tecnologici, l'abbiamo visto in pochi, Maradona l'abbiamo visto tutti e comunque è rivedibile anche attraverso DVD. Messi, la televisione ce lo propone tutte le settimane, stiamo parlando di due geni del calcio, di due divinità assolute. Se però facciamo il paragone tra titoli vinti e rendimento in campo, nei primi 22 anni della sua vita Leo Messi non ha eguali nella storia del calcio. Certo Fabio, adesso per Leo Messi arriva la prova più importante, perché a parte Maradona, poi su Maradona e sulla caviglia di Maradona è passato anche Goicoechea, e ci auguriamo che, certo, che Messi non trovi di questi ostacoli. Però anche Messi ogni tanto qualche toccata dura la deve subire, Carlo. Però io trovo questo, ad esempio, tutti dicono, beh, però Maradona ha vinto da solo il mondiale dell'86. Sì. Io credo anche che lui abbia fatto qualcosa di più nel 90, perché nel 90 l'Argentina era veramente una squadra scarsa e lui la portò in semifinale e la portò in finale e perse la finale con quel rigore della Germania. Ma il termine di paragone dei mondiali non è per Messi, non sarà per Messi Sudafrica 2010 con Messico 86. Perché il primo mondiale di Messi praticamente non c'è stato, Messi ha giocato pochissimi minuti in Germania, così come il primo mondiale di Maradona non ci fu, cioè nel 78. Il paragone deve essere 78-2006, cioè virgola per tutte e due, uno non convocato da Menotti e uno poco utilizzato da Pekerman. Il paragone 82 va fatto sul 2010, quindi il mondiale che Messi dovrà vincere da solo non sarà quello del 2010, certo, ma sarà quello del 2014 in Brasile. Anche perché poi, come tu sai benissimo, i paragoni si sprecano anche per nel basket LeBron James e Michael Jordan. Uno dice, sì, a quell'età Michael Jordan non era LeBron James, però poi Michael Jordan ha costruito la sua leggenda non solo per quello che era, ma per quello che ha vinto, e Messi dovrà fare altrettanto. Infatti, quello che Maradona ha vinto complessivamente, cioè Maradona ha vinto il mondiale e va bene, ha fatto una semifinale, ha fatto una finale persa, e questo Messi ha più o meno tre mondiali per potercela fare, sì. Ma a livello individuale, come vittorie, a livello di club, Messi non è già più raggiungibile, perché Maradona non ha vinto la Coppa dei Campioni, mentre invece Messi ne ha vinte due. Quindi se facciamo il paragone, sbagliando credo, con la bacheca, ci sono fior di giocatori che non possono nemmeno stringere la mano a Messi e che hanno vinto magari anche tre Coppe dei Campioni, quindi non è quello il parametro. Fabio, oggi c'è chi scrive addirittura, sono i soliti noti ai tabloid britannici, però c'è chi scrive addirittura che Ancelotti, passando in Inghilterra, naturalmente stia rischiando la panchina. Follia, io ho il sospetto che allora, intanto la stampa inglese fa giustamente o ingiustamente, questo non sta a noi dirlo, il suo lavoro. Credo che siano delle voci filtrate dall'entourage di Abramovic, non da Abramovic in prima persona, perché di Abramovic quasi nessuno conosce il tono di voce, visto che non è uno che non parla con nessuno, non ha mai rilasciato un'intervista. È abbastanza sicuro che nell'entourage di Abramovic l'eliminazione in quel modo, con un Inter così superiore nella gara di ritorno al Chelsea, sia bruciata tanto, e che Ancelotti sia stato preso soprattutto per la Champions, così come l'Inter ha preso Mourinho soprattutto per la Champions, sì. Non dimentichiamoci che Mourinho al secondo anno andò fuori anche lui agli ottavi contro il Barcellona. Al primo anno però Mourinho andò in semifinale, e una semifinale che ancora brucia tantissimo, perché ci fu quel gol di Luis Garcia, mm-hmm, che nessuno mai ha capito se fosse gol o meno contro il Liverpool, però lì eravamo a livello di semifinale. Attenzione però, Ancelotti può A, vincere la Premier, e può farlo, B, può vincere l'FA Cup, è in semifinale, e le altre tre non sono delle squadre mostruose, quindi attenzione, perché da un allenatore che già qualcuno definì perdente quando allenava la Juventus, stiamo attenti, soprattutto stiano attenti gli inglesi a darlo già per finito. Fabio, come pensai, adesso abbiamo il traffico, ti chiedo altri 5 minuti perché vorrei affrontare con te un altro discorso. In tutta Europa nell'anno dei mondiali qualche sorpresa te la può anche attendere, però tantissimo equilibrio in vetta ai campionati, sì. In Italia mi sembra un po' più fittizio rispetto agli altri paesi, perché io continuo a pensare che i competitors dell'Inter non siano dello stesso livello dei nerazzurri. All'estero la storia è un po' diversa. Allora, Premier League, Manchester United 69, Arsenal 67, Chelsea 65 con una partita in meno, poi c'è il fossato, Tottenham 55 punti. In Germania Bayern Monaco 56, Schalke 55, Leverkusen 53, Borussia Dortmund 48. In Francia coppia di testa, Bordeaux Montpellier 56 punti e l'Auxerre 55, Marsiglia 53, Lille Lione 51, equilibrio disperato. In Spagna Barcellona e Real Madrid punti 68, e poi il vuoto fino al Valencia 50. Beh, battaglie grosse in Europa, Fabio. Però è bastato ascoltare i numeri per vedere come in Francia ci sia grande equilibrio, e infatti vedi che il punteggio è molto più basso, certo. Cioè la quota della capolista è mostruosamente più bassa, cioè con i punti del Bordeaux in Francia sarebbe terzo forse. Questo che cosa significa? Tu hai detto una cosa giusta prima, cioè che l'equilibrio in Italia è un po' più fittizio, però adesso è diventato tale, nel senso che l'equilibrio in Italia è stato creato da una grande frenata dell'Inter, mm-hmm, non c'è dubbio, e questo non ha paragone in Europa, perché in Spagna Real Madrid e Barcellona sono in testa praticamente dalla prima giornata e arriveranno testa a testa fino alla fine, ma nessuna delle due ha fatto lo strappo, è sempre stato più avanti il Barcellona, però non ha mai avuto 8-9 punti di vantaggio sulle altre, così come in Germania il Bayern di Monaco è partito lento, poi a un certo punto è tornato sotto, è andato in testa e poi ha frenato perché nell'ultimo weekend weekend ha pure perso. La stessa cosa per il Bordeaux. Il Bordeaux è partito bene, è stato avanti, è praticamente stato lì a galleggiare sempre davanti, ma non ha mai prodotto lo strappo, così come non è accaduto in altri campionati. In Premier League praticamente Manchester United, Chelsea e Arsenal è dalla prima giornata che sì, sono lì. Il Chelsea è stato più in testa, ma non è mai andato via, anche perché in Premier League, purtroppo per fortuna, diciamo purtroppo, il calendario è un po' più ballerino e quindi vengono recuperate molte partite. Certo. Stiamo spesso con una, due partite da recuperare, poi spesso noi calcoliamo sempre come partite vinte quelle da recuperare, e non è sempre successo questo. Quindi in Italia è vero, tutto questo è stato prodotto dalla frenata dell'Inter. È anche vero che a questo punto la frenata dell'Inter ha allineato tutti, e quindi chiaro, se l'Inter esce con zero punti dalla gara di sabato all'Olimpico, allora l'Inter paradossalmente rischia di arrivare terza in, sì, un campionato dominato. Anche se mi immagino che in qualunque altra lega europea una capolista che fa 8 punti in 7 partite viene mangiata dalla concorrenza, cosa che in Italia non è avvenuta proprio per il motivo che stiamo dicendo, Fabio. No, ma è vero, questo è verissimo, cioè se il Chelsea avesse fatto quello che ha fatto l'Inter, o l'avesse fatto il Bordeaux, cioè se il Barcellona avesse fatto i punti dell'Inter nelle ultime 8 giornate, il Real Madrid sarebbe scappato via. E ti saluto. Volevo girarti un'ultima considerazione. Oggi si legge ad esempio sul Corriere della Sera che la Spagna vorrebbe introdurre il salary cap, cioè questa gigantesca voragine sotto il calcio europeo che cammina sul ghiaccio, no? Io ho l'impressione che il vero effetto della crisi economica sul calcio di vertice sia stato quello di aver creato, lo dico ormai da giorni, una sorta di oligarchia, 6 o 7 club in tutto che hanno come idea quasi unica la Champions League, spendono di conseguenza, incassano anche molto, come il caso del Real Madrid, 400 milioni incassato quest'anno. Il vero effetto della crisi sta nel fatto che si è allargato invece il fossato che separa questa elite da tutto il resto, ma lo leggiamo anche dalle classifiche, no? Sì, questo è evidente, anche perché basta semplicemente vedere le statistiche delle ultime stagioni. È veramente rarissimo trovare delle squadre che si siano affacciate in maniera sorprendente. In Francia c'è il Montpellier, che è l'unica squadra un po' sorprendente, però se vedi anche in Spagna siamo diventati adulti con la diarchia Real Madrid Barcellona. In Francia nessuno ha l'idea della Champions League, perché realisticamente Lione e Bordeaux la Champions League non la possono vincere. Gli anni in cui Lione aveva idee di grandeur ha vinto 7 titoli consecutivi, quindi sì, c'è proprio questa oligarchia al potere. Questo è vero, in effetti il G14 nacque per questo, poi non ebbe o non fece quello che probabilmente all'inizio nella sua genesi voleva, cioè una supercoppa europea. Come penso che per le dimensioni geografiche dell'Europa potrebbe tra 10 anni essere sganciare le squadre che non ce la fanno e tenere soltanto, tanto voglio dire, per l'Inter o per il Milan, andare in aereo a Palermo o andare in aereo a Londra è esattamente la stessa cosa. E beh, un conto però è giocare, non dico tutte le settimane, ma contro Arsenal, Manchester United o Liverpool, oppure, con tutto il rispetto, doversi confrontare con squadre di bacini di utenza e televisivamente meno appetibili, come esistono in tutti i campionati. Perfettamente d'accordo, grazie Fabio, buon lavoro e salutaci Raiola quando lo senti. Sì, non mancherò. Grazie Fabio. Ciao. Grazie Ciao. Fabio Tavelli. Il momento degli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, vi darà anche quello dei messaggi SMS, ma mi pare che non oggi facciano un po' le bizze. Comunque è 349-238-6666, provateci, chissà mai. Moreno, provincia di Milano, Riccardo e poi Ciro. Moreno, buongiorno. Buongiorno, dottor Genta. Dica. Una considerazione. Ieri praticamente un ascoltatore ha detto che il problema è della Juve e del Piero. Sì. Questa secondo me è una pazzia assoluta, perché del Piero dal 2006, da dopo Calciopoli, ha vinto cannoniere in B, cannoniere in A. Sì. Ma scorso ha fatto qualcosa come 25 gol, e quest'anno il fatto che abbia iniziato tardi a giocare praticamente si vede la classifica come siamo messi. Ma guardi, insomma, problema lì è Diego, che non calcia in porta neanche quando è davanti al portiere, quando siamo sul 4-1. Sì. Diego non è Del Piero, però sul fatto che Del Piero sia un problema per la Juve, non un problema tecnico naturalmente, però un problema gestionale nel cambiare pelle, quello sì, io sono abbastanza d'accordo con chi ha detto questo ieri, perché insomma l'appeal di Del Piero nei confronti della tifoseria, il peso di Del Piero all'interno di quello spogliatoio, in certi momenti può rappresentare un problema, soprattutto con allenatori a termine, a fiducia limitata, sotto stretta osservazione, eccetera eccetera. È chiaro che Del Piero è la Juventus ed è chiaro che, insomma, può, capiamoci, può rappresentare anche un ingombro se la Juventus vuole rinascere, vuole cambiare pelle, vuole cambiare faccia, perché non dimentichiamo come Del Piero fu messo in discussione ampiamente, pesantemente, anche maltrattato, lo ricordiamo bene, da Fabio Capello. Ricordo bene quelle domeniche in cui Del Piero si alzava all'87esimo sul 2-0 per la Juventus, si alzava dalla panchina in maniera anche inelegante, voglio dire, per chi lo trattava in quella maniera. Però Fabio Capello sappiamo bene quale carisma abbia e quale peso avesse all'interno della società. Quindi il fatto che Del Piero sia così intoccabile per tutti gli allenatori che dopo Capello e nel nuovo corso sono passati su quella panchina, secondo me rappresenta un freno, un ostacolo o comunque un problema nella rinascita, nel cambio di pelle della Juventus. Riccardo Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Gente. Senta, volevo parlare di quello che è successo ieri sera a Striscia la notizia. Sì. A me non mi è piaciuto per niente, perché secondo me Striscia sfrutta l'ingenuità di Balotelli per renderlo ancora più odiato. Poi a loro chi se ne frega, insomma, cosa gli succederà a San Siro. Questo mi sembra un classico del giornalismo irresponsabile, cioè considerare sono delle persone, degli oggetti in un involucro di carne, ma questo è assolutamente un qualche cosa che non va bene, anche perché Striscia è sempre la trasmissione dell'etica, però non è vero. Ne ho viste di peggiori, Riccardo, ne ho viste di peggio e poi, insomma, essere personaggi comporta anche questo. Il tapiro non vengono a darlo né a me né a lei, no, lo danno a Balotelli e ci sono delle ragioni precise. Poi, detto questo, ho visto assegnazioni più problematiche rispetto a quella di ieri. Chiaro che Balotelli un po' nel vicolo si è cacciato. È chiaro anche che deve uscirne con comportamenti un po' più intelligenti, un po' più furbi, forse, mi sembra la parola più corretta, però ne ho viste di peggiori, se mi permette, rispetto a questi Balotelli. Stiamo sempre parlando di pallone. Ciro, Napoli, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Lei, dica. Ragionando sul tapiro, se mi dessero il tapiro io faccio il rappresentante, triplicherei quantomeno le mie fatture. Ma c'era, ma infatti il tiro da vicica, ma, tirato. Sì, no, ma anch'io. vale anche per me, Ciro, non pensi di essere il solo. Senta, io allora una piccolissima precisazione. Sì. Sono di Napoli, tifoso del Napoli, quindi ovviamente suddito di Maradona. Suddito di Maradona. Sì, suddito, decisamente, il nostro re. Messi io lo considero da tempo anch'io, condivido con il giornalista che ha parlato prima. Non può essere considerato blasfemo e mi è piaciuta tantissimo l'affermazione, però c'è una piccola precisazione da fare sul discorso dei 22 anni. Maradona 17 anni andò a vincere un mondiale juniores con l'Argentina, non fu convocato da nel 78, percorso simile a quello di Messi, percorso simile. Un percorso simile, però le frontiere sono un attimino più aperte rispetto agli anni 80 di quando c'era Maradona. Era solo una piccola precisazione, ovviamente non il polemico, perché poi il mondo va avanti, le cose vanno avanti. No, ma non c'è nulla di polemico, no, ma anche in questo, vede, ma si sottolineava anche questo, Ciro, come il cammino di Messi e Maradona da predestinati sia stato assimilabile da molti punti di vista, compreso il fatto che il primo mondiale in cui erano, diciamo così, eleggibili per levatura tecnica è stato per Maradona 78 e non fu convocato da Menotti, per Messi quello del 2006, in cui già si intuiva, appunto alla luce dei mondiali giovanili e di quello che stava facendo, che sarebbe diventato un grande giocatore, però non è stato in pratica utilizzato in Germania. Questo sarà il suo primo mondiale vero, sarà il suo primo mondiale vero in Sudafrica, però con ogni probabilità, sempre seguendo la pista tracciata da Maradona, sempre seguendo le orme di Maradona, il vero mondiale della consacrazione, a occhi e croce per Messi, dovrebbe essere quello del 2014. Poi, sai mai, magari va lì con questa questa Argentina che in fase di qualificazione sembrava l'armata Brancaleone, che invece guardate che sta trovando quadratura. L'Argentina sta trovando forse una faccia. Le ultime amichevoli, soprattutto quelle in Germania, ci dicono che l'Argentina in Sudafrica potrebbe anche non fare una figuraccia, mettiamola così. Poi è chiaro che molto dipenderà da quello che Messi riuscirà a fare in quella squadra, da come riuscirà a trasformare quella squadra, perché il Messi della nazionale non è mai stato brillantissimo, non è ancora stato brillantissimo. Magari cominci in Sudafrica, vediamo. Guarda caso, ho rivisto proprio pochi istanti fa su Sky delle immagini lontane che hanno segnato per me, come per tanti altri ragazzini all'epoca, alla fine dell'età dell'innocenza. Immagini di un'ape furgoncino ben noto, arancione, sulla pista dell'Olimpico, affiancato da una 128 verde della polizia. Stavano arrestando il calcio, era il 23 di marzo, come oggi, del 1980. Questo anniversario non proprio allegro, però un anniversario importante nella storia del nostro calcio. Per questo ci sembra il caso di fare due chiacchiere con Alberto Cerruti, la Gazzetta dello Sport, ben importante. Ciao Alberto. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ti ricordi, eh? Pioveva, un po' come in questi giorni, no? L'Italia sotto l'acqua. Io ricordo benissimo, anche perché a quella giornata era una domenica legata forse alla mia più grossa gaffa professionale. Io allora seguivo il Milan, e ero a San Siro. Il Milan quel giorno perse 2-0 contro il Torino. In porta giocava Rigamonti, che era il portiere di riserva, perché Giacomini aveva intuito che c'era qualcosa di poco chiaro e per la prima volta aveva escluso il titolare Albertosi. E allora il Milan, che perde 2-0 in casa col Torino, prende due gol incredibili. Io a fine partita cerco di avvicinare Albertosi, col quale avevo e ho un ottimo rapporto, all'uscita dallo stadio, perché allora i giocatori uscivano a piedi, non con le macchine come oggi. E dico: Ricky, mai visto Rigamonti? Cosa ne pensi del gol che ha preso? Cosa ne pensi? E lui non mi guarda neanche, va avanti dritto verso i cancelli dello stadio, esce e proprio non mi risponde, non mi guarda, un atteggiamento stranissimo. Ho capito dopo che di fianco a lui le persone che lo avvicinavano erano degli agenti in borghese che lo stavano accompagnando su una macchina che lo ha poi portato direttamente a Roma, al carcere di Regina Coeli. Ecco, quello è il ricordo di una giornata incredibile, indimenticabile, sì, alla quale poi è seguito il processo, il carcere e tutto quello che sappiamo. Cruciani e Trinca, i due nomi di chiave di quell'indagine, che oggi sono tra l'altro spariti, nessuno sa più che fine abbiano fatto. Il lunedì come fu invece, Alberto? Per chi fa questo mestiere, il lunedì è il giorno del riposo, comunque il giorno del commento delle partite della domenica. Quello fu un lunedì strano, eh? Beh, quello fu veramente un lunedì nero, lunedì tremendo, perché erano implicati tanti giocatori e giocatori famosi, giocatori del Milan. Paolo Rossi e Giordano, che erano quelli della nazionale. Sì, Milan giocava con lo scudetto sulle maglie, sì. E quindi ricordo, era il primo scandalo, quindi era la prima pagina nera del calcio italiano. Per cui ricordo lo smarrimento, la tristezza, anche perché ci rendemmo subito conto che si trattava di una cosa grave che avrebbe avuto ripercussioni gravi per molto tempo nel calcio italiano. Infatti quella vicenda andò avanti per diverso tempo, per dei mesi. Io andai poi all'uscita dal carcere a Roma, quando uscì Felice Colombo, che era il presidente del Milan. Insomma, furono giornate difficili sul piano professionale, ma soprattutto molto tristi dal punto di vista umano per chi ama il calcio prima ancora che questa professione. Alberto, leggendo la cronaca di questi giorni invece ti viene da dire che deve essere proprio il periodo, i fiori del male della primavera. Adesso è ancora molto presto, però c'è la storia di Chievo Catania, che insomma non è ancora un'indagine ma potrebbe anche diventarlo, e oggi, guarda caso, troppe scommesse sui pareggi e la SNAI ha bloccato il gioco su due partite della Serie B, e sono Vicenza Crotone e Frosinone Modena, appunto per movimenti anomali. C'è poi il caso del Potenza. Che momento è per il calcio italiano, Alberto? È un campanello o semplicemente un caso, o c'è qualcosa di poco chiaro secondo te? No, un caso no, purtroppo è una malattia che si ripete, ci sono delle ricadute cicliche, sempre ovviamente a fine campionato. Il nostro calcio rispecchia la mentalità della nostra società, del compromesso, della furbizia, anche dell'inganno, dell'accordo sottobanco. Il nostro è un calcio completamente diverso come mentalità dal calcio inglese, dove fino all'ultima giornata anche la squadra che retrocessa si batte, perché lo spirito dello sport è quello di scendere in campo per vincere sempre e comunque. Invece nel calcio italiano spesso lo spirito è quello di accordarsi per pareggiare, e chi si ribella o senza saperlo non si adegua a questo accordo più o meno chiaro, poi viene accusato dai suoi compagni. Vediamo sul campo delle scene di giocatori che segnano il gol e vengono insultati. Bravissimo. Vengono rincorsi, salvo poi vedere a distanza di poco tempo il pareggio della squadra che, certo, che ha subito il gol tra virgolette contestato. E non c'è nessuna indagine naturalmente in corso, parlo solo di atteggiamento e di comportamento sportivo. Alberto, a me dà fastidio vedere un atteggiamento, un comportamento sportivo al di là di tutto, ad esempio del Cagliari, perché nessuno mi leva dalla testa che questo club, ma con buone ragioni, se vogliamo, l'Europa non, in Europa non ci voglia arrivare, è un atteggiamento, se vogliamo, antisportivo. Certamente è un atteggiamento antisportivo, è sospetto, anche se apparentemente eccezionale, il gesto di Cellino che vuole rimborsare gli spettatori. E poi si potrebbe parlare sul fatto che noi per tutto l'anno diciamo che la tale squadra corre per l'Europa, e dopo vediamo che appena arriva nell'Europa League, che prima si chiamava Coppa UEFA, le squadre poi escono perché preferiscono salvarsi piuttosto che andare avanti in Coppa UEFA, o si lamentano perché devono giocare il giovedì sera, la domenica. La morale è che dal 1999 l'Italia non vince la Coppa UEFA, allora fu il Parma di Malesani, mentre le altre squadre tedesche, che ci stanno giustamente strappando un posto per il ranking europeo, le squadre inglesi, le squadre spagnole, vanno avanti tranquillamente, perché il Liverpool è uscito dalla Champions League, non ha fatto una piega, è andato avanti in Europa League e non snobba questa competizione come non la snobbano gli altri. Noi invece pensiamo sempre di essere più furbi di tutti. Assolutamente. Ti chiedo ancora questo per chiudere sui fiori del bene di questa primavera, sui fiori auspicabili. Sarà davvero una volata fino all'ultimo colpo di pedale quella per lo scudetto, o come io temo è una volata un po' impari, cioè chi insegue l'Inter sta approfittando di questo rallentamento ma non è effettivamente attrezzato per battere l'Inter in questa corsa? Beh, il Milan sta facendo un miracolo, perché nessuno poteva immaginare che il Milan andasse così bene a 4 punti in più. Se c'è questa incertezza, il merito o la colpa è dell'Inter, che viaggia sotto media, 9 punti in meno dell'anno scorso, e dal 1999 che la capolista non ha così pochi punti a questo punto del campionato, e quindi è l'Inter che sta facendo di tutto per incoraggiare le sue rivali. Io credo più nella Roma che nel Milan, sarà decisiva questa settimana. Se la Roma sabato sera sarà a un punto dall'Inter, cioè se si mantenessero le distanze domani e se la Roma battesse l'Inter andasse a un punto, allora davvero si potrebbe pensare che la Roma ha le carte in regola per vincere lo scudetto, anche se l'Inter a mio parere rimane la grande favorita. Perfettamente d'accordo con te, grazie Alberto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon lavoro ad Alberto Cerruti. Sono d'accordo, l'ho detto molte volte, credo anche io più alla Roma che al Milan. Credo che se l'Inter butterà quello scudetto, la Roma potrà saltare più in alto del Milan. Ovviamente tutto da verificare, ma la sensazione è questa, così come la mia personale, che alla fine l'Inter vincerà quello scudetto davanti alla Roma. Facciamo 5-6 punti, lo dico oggi, 14:42. Di questo martedì strano, ricorrenza di quanto vi abbiamo ricordato e raccontato di nuovo. Un paio di ascoltatori, Alex da Udine e Gianluca da Genova, prima di fermarci per il traffico. Alex, buongiorno. Ah, salve Genta, un piacere parlare con lei. Reciproco. Grazie. Io sono di Udine, perciò intanto volevo, prima di tutto, siccome nessuno parla mai, fare i complimenti al nostro grande Totò di Natale, che ogni anno si migliora sempre nonostante l'età. Non so come faccia, però indubbiamente insieme a Totti, secondo me, è tecnicamente il miglior giocatore italiano. Sì. Poi magari sono un po' di parte, però parlo dal punto di vista esattamente tecnico. La considerazione ci può stare, ma possiamo anche magari trovarne qualcun altro. Però la considerazione ci può stare. Di Natale, beh, insomma, non è che anagraficamente sia così avanti, ecco. Non è poi sorprendente che riesca ancora a migliorarsi, soprattutto. No, però in una... diciamo che più che altro i giocatori si notano più quando fanno tanti gol, e lui è iniziato un po' tardi, diciamo. Certamente. Poi un'altra cosa a cui tenevo molto a sentire il suo parere. Prima con Tavelli avete parlato di Messi e Maradona, del paragone fino ai 22 anni, diciamo, no? Che Messi sarebbe irraggiungibile per adesso. Però io non vorrei che si dimenticasse un certo Ronaldo, che secondo me entro i 22 anni e fino ai 22 anni ha mostrato veramente il meglio di sé, e secondo me non è inferiore, secondo me non era inferiore per efficacia, con caratteristiche diverse, ma per efficacia, per bellezza del insomma, certo, di tutto, insomma, come assolutamente, forza, assolutamente inferiore a Messi, secondo me. Scusi, l'ascolto per radio. No, ma ha ragione, c'è poco da ascoltare, lei ha ragione. Fa bene a ricordare come Ronaldo, che poi ha avuto i problemi che conosciamo bene, non avesse avuto quei problemi, probabilmente se non a braccetto di Maradona, insomma, sarebbe proprio appena dietro di lui. Fa bene a ricordare che Ronaldo a quell'età era quanto di più simile a Maradona si potesse immaginare. A proposito di questo discorso, comunque, guardate il caso, c'è proprio un'agenzia battuta alle 14.39, naturalmente non sono dichiarazioni delle 14.38, sono dichiarazioni riportate dal quotidiano spagnolo El Mundo, e c'è Messi che dice: per diventare una leggenda, per essere un grande, devi anche vincere una Coppa del Mondo. Ho appena compiuto 22 anni e sta accadendo tutto molto rapidamente e bisogna stare calmi. Poi dice ancora Messi, che ha in qualche modo respinto gli accostamenti con Pelé e Maradona: non voglio mai mancare di rispetto a nessuno, io gioco solo a calcio alla mia maniera. Certo, se c'è una differenza tra Messi e Maradona è che, mentre Maradona a volte è anche molto sopra le righe, però già a 22 anni, quando diceva qualcosa, era qualcosa che valeva la pena di essere ascoltata. Leo Messi, insomma, da dire, non ha esattamente un granché, se vogliamo parlare di personaggi al di fuori del campo. Abbiamo Gianluca da Genova, buongiorno. Buongiorno. Senta, le volevo porre questo quesito. Visto che si parlava prima di Coppe Europee, dal 99 non vinciamo Coppa UEFA e quant'altro. Sì. Mi sono chiesto, ma non è che questo tutelare in Italia, tra virgolette, tutelare le squadre di grido, le squadre che i mass media portano sempre su un palmo di mano, sia controproducente poi ai fini delle coppe, perché ovviamente poi in Europa ci bastonano, in Europa non ti guardano se ti chiami Juventus, Fiorentina o Milan. Sì. In Europa se ti devono mandare via ti mandano via, se ti danno un gol che non c'è te lo possono dare. In Italia questo non accade. Una volta che è successo con l'Inter, che hanno mandato due fuori dell'Inter, giustamente è successo un finimondo. Cioè, io credo che, io parlo da parte di genoana perché siamo una di quelle squadre invisibili alla stampa, ai mass media, perché è così e va bene. Però alle volte dovrebbe forse anche il calcio italiano domandarsi il perché in Europa facciamo queste figure. Guardiamo in casa nostra, guardiamo che queste squadre vengono tutelate all'eccesso. E ma quindi non, lo paghiamo. Guardi, poi secondo me non è questione di tutela. Se lei mi dice che in Europa c'è un'area migliore, sono d'accordo, l'abbiamo detto mille volte, e ci si comporta in un'altra maniera, si danno e si prendono anche con gli arbitri. È tutto vero, se vogliamo dire che il calcio europeo è più credibile, possiamo anche dirlo. Poi, però non è questa la ragione per la quale le nostre squadre vanno in questa maniera nelle coppe europee. Semplicemente non siamo in questo momento competitivi a livello europeo, tutte salvo l'Inter, le altre competitive non lo sono, né a livello di Champions League, e i risultati sono lì da vedere, da leggere, né a livello di Europa League, perché poi arrivano le squadre inglesi, arrivano certe squadre tedesche che sono anche più motivate, che ci credono di più e sono naturalmente più attrezzate rispetto alle squadre di, soprattutto di seconda fascia italiane, e allora ecco che non, non si vince nulla, ma non credo che la ragione stia nella... nell'eccesso di tutela, se esiste ed esiste, certamente delle grandi squadre nel campionato italiano. I discorsi penso siano un po' diversi. Altra notizia di oggi non riguarda il calcio, e insomma di calcio sono anche un po' stufo di parlare, anche perché domani avremo da dire, dopodomani immaginate un po'. Adesso però vorrei affrontare un altro argomento, perché questa mattina RCS Sport ha reso pubblico l'elenco delle 22 squadre invitate al prossimo Giro d'Italia. Siamo al giorno dopo praticamente una Milano-Sanremo che ha incoronato ancora uno straniero, Oscar Freire, e c'è un dato che mi preoccupa un po'. Adesso ne parliamo con Angelo Zomagnan, direttore del Giro d'Italia. Buon pomeriggio Angelo, grazie. Buongiorno a voi. Quante stelle al Giro? Da Evans a Freire, da Sastre a Wiggins, da Pellizzotti a Basso, tutti tranne Lance Armstrong, che è passato l'anno scorso e quest'anno non tornerà, no, mi pare, Angelo? Sì, quest'anno è l'ultimo anno di Lance Armstrong e la priorità per la sua squadra, che è Radio Shack, è disputare il Giro di California, che è l'unica importante competizione che si svolge negli Stati Uniti ed è concomitante con il Giro d'Italia. Quindi dal Giro d'Italia Armstrong si è chiamato fuori di fatto quando ha siglato questo accordo con Radio Shack. Invece per il resto ci sono davvero tutti, da Cade Evans a Sastre, ad eccezione di Contador, che c'è stato 2 anni fa e tornerà l'anno prossimo, ma che quest'anno per le note o seminote vicissitudini che ha dovuto attraversare durante l'inverno e l'autunno scorso, si è ritrovato con una squadra fortemente indebolita dal furto di materiale umano da parte di Lance Armstrong, e quindi non si sente in grado di mettere alla frusta i propri compagni di squadra in 2 grandi competizioni all'anno, cioè il Giro e il Tour de France. Quindi ci ha promesso di tornare nel 2011. Il dato su cui volevo riflettere con te sta nella cronaca, sta nella foto di Menchov in maglia rosa, ultimo vincitore, uno straniero. Sta nella cronaca che dice che insomma Freire ha vinto la Milano-Sanremo, l'ultimo grande successo di un corridore italiano in una classica è datato ormai 2008, Damiano Cunego, Giro di Lombardia. 2009 Nero, Puzzato secondo alla Roubaix, è stato il miglior risultato dell'anno passato, e a guardare la Milano-Sanremo le prime cose, aspettiamo la campagna del Nord, però ci andiamo non con grandissimi favoriti. Il ciclismo italiano è in crisi? Direi di no, direi che in una fase negativa del classico ciclo di anni buoni e di anni meno buoni. Ci sono stati degli anni, quelli ad esempio a ridosso della fine degli anni 80, in cui il ciclismo italiano sembrava una disciplina morta e invece aveva in gestazione un gran numero di campioni che poi hanno caratterizzato gli anni 90 e anche la prima parte del nuovo secolo. Il dato inconfutabile è che rispetto a 50 anni, 40 anni e forse anche 30 anni fa, il ciclismo è molto più mondializzato, è molto più internazionalizzato, sì. E quei corridori di quei paesi che fino a qualche decennio fa proprio non comparivano neanche nel panorama del ciclismo professionistico, adesso invece sono protagonisti. Abbiamo norvegesi, danesi, e americani, certo, inglesi eccetera, che si sono aggiunti a quelli dei paesi tradizionali che continuano ad essere Spagna, Italia, Belgio, Francia. Certo. Senti Angelo, volevo chiudere con te su 2 nomi che sono italianissimi. Uno è quello di Ivan Basso. Dopo la stagione di riprese di transizione dell'anno scorso, sono curioso di capire quest'anno al Giro d'Italia soprattutto cosa potrà dare, ti chiedo un'opinione. L'altro è quello di Riccardo Ricò, che ricomincia invece l'attività agonistica dopo la lunga squalifica, però la sua squadra, che non è tra i top team del Pro Tour, non è invitata a questo Giro d'Italia. Ma allora partiamo dal secondo, al quale auguriamo le cose più belle del mondo e di risorgere, di risollevarsi dopo lo scempio che ha compiuto nel 2008 al Giro d'Italia. Ma la sua squadra non è invitata non tanto perché non appartiene ai top team, ma perché è una squadra che è arroccata attorno a Ricò, e senza Ricò, al quale amorevolmente concediamo un periodo di quarantena in attesa che che si riabiliti, non ha altri elementi di spicco per poter essere in un cast di alta qualità e di eccellenza come chiediamo alle squadre che vengono al Giro d'Italia. Per quello che riguarda Basso, credo che quest'anno sia davvero l'anno in cui debba andare all'assalto del Giro d'Italia e o del Tour de France. È chiaro che per uno che ha le sue caratteristiche, per uno che è uscito in maglia rosa dal Giro d'Italia del 2006, che ha pagato il proprio debito con la giustizia sportiva, questo è l'anno della svolta, cioè voglio dire è all'incrocio epocale. Certo. O torna ad essere Basso o se no non sarà più Basso. Fare una ragione, sì, sì. Come ce la faremo noi, insomma. Naturalmente, buon lavoro direttore. Grazie, buon lavoro a voi. Buon lavoro ad Angelo Zomagnal, direttore del Giro d'Italia, con cui chiudiamo questo programma. Io ringrazio Franco Piantanida per il lavoro in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. L'appuntamento è a domani. Domani sarà giornata di campionato, sarà il sabato del villaggio, dunque vi aspetto per chiacchierarne insieme. A domani.